Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Ciao ragazzi, qui è Federico e oggi sono con due ospiti che si chiamano Riccardo, Flatline sul forum. Dicevo Francesco, Nierla Totep del forum. Va bene, allora, visto che la puntata sarà particolarmente lunga, direi che possiamo tranquillamente cominciare a fare una sorta di commentario di tutte le carte che sono uscite con Creation and Control. Io lascio parlare voi, faccio solamente il Maurizio Costanzo della situazione. Annuncia la carta almeno. Vi modero, sì, annuncio la carta, vai. Allora, poi chiaramente anche i nomi saranno difficili da pronunciare. Allora, qui abbiamo Alex T4LB07. Chi cacchio gli è venuto in mente sti nomi? Aspetta, Talbot, infatti sì, però... infatti stavo dicendo, no, forse c'è una parola nascosta che non sto leggendo. Talbot, sì, Alex Talbot, dai. Allora, io dico cosa fa. È un asset, costa 1. Chiaramente io lo dico perché siamo in un podcast, è vero che è un podcast molto di nicchia, quindi tendenzialmente le persone sanno di cosa stiamo parlando, però senza farli smattire per andare a riguardare la carta, lo dico al volo che cosa fa, che così è meglio. Allora, è un asset Byroid, costa 1, come influenza ha 1, place one power counter on Alex Talbot, quindi metti un counter potenza su di lui e ogni volta che installi una carta, al costo di un click e trasciando la carta puoi ottenere 2 per ogni segnalino potere che c'è su Alex Talbot. A quanto pare sembra una carta economia. Voi che dite? Vado io. Beh, diciamo che a me non dispiace. Allora, il problema grosso secondo me è che all'HB non gli serve un'altra carta economia, ha di meglio, soprattutto perché il trash è basso. L'HB generalmente ti piazza l'economia non protetta, quindi lì dentro non ci sta tanto. Però il costo di un'influenza io sinceramente ci penserei parecchio in altri mazzi. Per esempio, io non lo so, così di primo acchitto a me viene in mente che non sta per niente male in un Jinteki con Replicated Perfection. Sì, che fai serveroni lunghissimi orizzontali. Esatto. Cioè, installi tanta roba. Comunque, prima di andartelo a trasciare, devi farti una run sui centrali. Insomma, secondo me non è male come carta. Poi, alla fine, si ripaga abbastanza rapidamente, se ci pensi. Sì. Tendenzialmente la ripaghi in un turno. Sì. Assolutamente. Il mio problema è semplicemente il fatto che non metti token avanzamenti, ma power counter, e quindi non è soggetta a combo particolari, probabilmente psychographic piuttosto che matrix analyzer. Però ed è molto molto fragile in virtù del fatto che durante il turno del runner praticamente è alla mercé di qualsiasi forma di distruzione, perché con costo di trash 2 è un attimo. Io la vedo come un ibrido con una trappola, nel senso che è qualcosa che tu installi, il runner sa che c'è, sa che se non te la va a distruggere un ritorno economico, però sì. Sì, è un dovrà po'... farti una run. Sì, ti dà la stessa un po' forse sensazione che ti può dare Melange Mining Corp, che una volta che sai che è lì ci devi per forza andare. Esatto, fermo restando che Melange è un altro livello. Sì, beh, certo, chiaramente. Francesco, che dice? Allora, a me sinceramente non fa impazzire, proprio perché gli avanzamenti avvengono appunto quando si ha l'installazione di una carta a faccia in su. Sì. Quindi giochi a carte scoperte, al solito discorso, gioca a carte scoperte e so quello che metti, quindi è alla mercé del runner quella carta a scegliere se utilizzarlo o meno. Il fatto che c'è quel click prima di trasciarlo, sì, fa comunque, se il runner decide di entrare e buttartela, te la butta. Però comunque è comunque un deterrente alla fine. Cioè, tu sai che messa lì con un ice che rompe un po' le scatole, che magari fa perdere, ne so, un enigma, che ti fa perdere un click in early game, può essere un po' una seccatura. Però ecco, nulla di trascendentale per quel che mi riguarda. Passiamo oltre, vogliamo dare dei voti? Dai, da 1 a 5 quante stelline le diamo? Bah, dentro HB poco o niente, però 2, 3, insomma. Cioè, una carta che può trovare gioco, insomma, non mi strappo i capelli dalla gioia. Vabbè, anch'io due stelline gliele do con beneficio di inventario per il futuro, magari potrà riuscire ad avere tre, molto condizionale comunque. Ma per me, ma insomma, è abbastanza basso, diciamo, va sempre testata, per carità, 1.5. Vabbè, dai, siamo sul 2. Passiamo oltre, via. Allora, noi facciamo confusione, passiamo dalla corp ai runner senza discriminazioni, facciamo ordine alfabetico. Allora, Atman, a parte che sembra, praticamente il nome sembra tipo una ditta che fa i trasporti italiani, tipo agenzia di trasporti di marittimi anconetani, Atman. Cos'è sto Atman? Voi ce sapete qualcosa? Non ho idea da dove venga il nome, citazione di qualcosa di indiano, penso, tanto i Shaper sono tutti fatti così, hanno tutte queste citazioni di robe trascendentali. Provato. Ho appena aperto Wikipedia. Atman è un termine sanscrito di genere maschile che indica l'estenso e il soffio vitale. Ah, vedi. Fortuna te. Dai, allora, è un programma, è un icebreaker. Attenzione, è la prima intelligenza artificiale fra gli Shaper, quindi è un icebreaker AI, quindi ci possiamo aspettare effettivamente che rompa qualsiasi forma di ice. Ha un'influenza 3 e quando installi Atman puoi pagare X crediti per mettere X power counter su di esso. Atman ha un +1 di forza per ogni power counter su di esso e la sua abilità è rompere una subroutine di un ice qualsiasi, quindi non un ice specifico, in un ice che abbia la stessa identica forza di Atman, quindi molto chirurgico, molto condizionale. Che ne dite? Ah, secondo me questa è una di quelle carte potenzialmente devastanti. Ancora non ci ho pensato bene su come costruirci un mazzo, ma è molto devastante perché, dai, Noto chiaramente va giocata insieme a tre Data Sucker. Ah, sì. Ecco, no, infatti non avevo ancora sentito la parola Data Sucker, mi stavo preoccupando. No, ma anche giocata senza Data Sucker non è unica, quindi sicuramente ne puoi giocare più di una. Sì. Su quelli che sono gli ice problematici, e per tutto il resto c'è Crypsis, cioè un mazzo molto aggressivo. Io non ho niente male, un Chaos Theory di quelli meno e carico il più possibile i server avversari. Insomma, secondo me è una carta molto molto molto interessante. Sicuramente c'è qualche modo molto più intelligente di quello che ho appena detto per giocarla, però ha un'ottima potenzialità, devo dire, anche perché diventa annulli, è una femme fatale se ci pensi, però non per un solo ice, per tutti gli ice con quella forza, con i Data Saga diventa ancora più universale. Sì, l'associazione con femme fatale secondo me non calza molto, perché femme fatale ti tira fuori dalle pesche quando c'hai cose tipo toolboot o cose che succedono all'incontro, tipo Data Raven, quelle cose lì che non sono rompibili, quindi femme fatale secondo me è ancora proprio un'altra classe. Però sì, no, capisco perché hai fatto hanno due ruoli diversi, ma il concetto ti fanno passare un ice anche grande in maniera molto economica. Sì, sì, sì, e sì. Il costo di una femme fatale è 9. Con 9 questa qui è una carta con forza 6, di roba ne buca. Sì, sì, sì, sì. Io lo vedo bene nei mazzi, chiaramente, che giocheranno Anarch con i Breaker con la forza predefinita, e quindi Data Sucker ce lo devi già giocare, e quella è il jolly fondamentalmente. Tipo, che ne so, Yogosauro che rompe tutto da 5 in giù, se incontro un Codegate, che non so, da 6, adesso non credo che ne esistano a parte Cell Portal. Comunque sì, se incontrerò dei Codegate più seri, almeno c'ho Atman che mi gestisce la cosa. Chiaramente Data Sucker è la parola che va insieme a questo Atman. È la forza vitale per succhiare i dati. Data Sucker, Atman. Altri commenti? Oh, stessa azione, questa è una carta veramente forte a prescindere, perché comunque la puoi giocare anche nel mazzo chirurgicamente se hai idea dell'ice più rompiscatole che ti troverai davanti in quel matchup. Quindi tu con quella a terra la metti, ma potrebbe anche essere ottima per l'ice quadratico medio, appunto col Data Sucker. Se tu ti metti un Atman caricato a 4 e te la metti lì, da 4 in giù rompi tutto con un segnalino sul Data Sucker. Mediamente, salvo casi particolari, che dal toolbox in su, naturalmente non so Veyland in questo esempio perché parte No, aspetta che hai fatto un esempio particolare, però secondo me che non quadra. Cioè, se tu lo metti a 4, tu rompi solamente gli ice che hanno 4. Data Sucker sì. abbassa la forza, eh. Quindi Madonna, al contrario, sì, forse lo devi mettere al minimo o tipo che esatto, ne so, a 1 2 a 3, ma secondo me quadraticamente lo puoi mettere a 3. Cioè gli ice rompiscatole son quelli. Se trovi un enigma ci metti un Data Sucker. Ice Wall ci metti un Data Sucker. Sì, se trovi anche banalmente qualsiasi cosa ti rompa le scatole, lo giochi un po' alla maniera Anarch, per intenderci. Ah, un'altra cosa che ci vedo molto bene con Atman è l'orca come si chiama? Dai, Darwin. Vero, Darwin. Darwin. Sì, perché Darwin gestisce tutto, diciamo, la parte bassa della tua zona. Della zona degli ice a valore basso, e invece Atman magari lo cali a costo 5, a costo 6, quindi c'ha 3-4 segnalini sopra. E no, quanto costa? 3, quindi sì, lo devi calare a costi sì, da 6 in su, e gestisci plausibilmente gli ice che sai che incontrerai che hanno forza più alta, tipo 10. Ma sai, guarda, l'idea per me è interessante, però con col Darwin rischi poi alla fine di sforare con le influenze. A questo punto secondo me è più fattibile mettere l'Atman con 3 Data Sucker, che tanto è un punto l'uno, se ricordo bene, il Data Sucker. Sì. Era quello che stavo pensando, infatti il mazzo che avevo buttato giù, che avevo pensato era con il Darwin, però quando ti rendi conto che Darwin costa 3 influenze, se fare Atman più 3 Darwin, sì, poi più Data Sucker, più quindi dare con l'influenza. Va bene, passiamo oltre, io gli do un 3, mi tengo basso. Io direi tra il 4 e il 5. Addirittura, voglio vederlo giocato. Sì, no, anche io. Anche perché questa potrebbe essere quando tu stai facendo la run e c'hai due icebreaker del rig e ti manca l'ultimo, e quello ti tira fuori quello che ti rompe le scatole in quel momento della partita. Tu la cali e entri. Sì. Quindi può essere quello che ti svolta in quel momento. Perché passa tutto. Ma io piuttosto lo vedevo come un ice da late game più che da early game. Cioè un ice che giochi quando tutto è scoperto, cioè quando sai già come sta messo l'avversario. A maggior ragione il fatto che non è unico ti permette di giocarne uno in early, per esempio. Successivamente cambia l'ice che ti dà, cali un nuovo Atman per rompere l'ice. Sì. Ah, potrebbe essere interessante con quella carta che vedremo dopo, quella che ti fa trasciare un ice trasciare un programma per mettere in gioco un altro programma, ma la vediamo dopo. Dai, passiamo oltre. Awakening Center. Allora, è un upgrade. Chiaramente Bioroid. Questa la conosciamo da parecchio tempo, ha un costo di 2. Influenza 1 solamente, anche se effettivamente è la meccanica stessa che vincola un po' l'influenza, perché Awakening Center può ospitare un Bioroid, quindi è qui che vincola molto, perché può ospitare solamente Bioroid, quindi un Ice Bioroid, e quindi quando tu installi un Ice Bioroid puoi decidere di installarlo direttamente su Awakening Center, perché lo può ospitare. Tutte le volte che il runner passa tutti gli ice che proteggono questo server, puoi rezzare un ice di Awakening Center abbassando il costo di 7, quindi fondamentalmente pagandolo gratis, e per forzare il runner a incontrarlo. Chiaramente trascia, quindi scarta questo ice alla fine della run. Però chiaramente il runner deve confrontarsi con qualcosa di inaspettato che la corporazione non ha, fondamentalmente non ha pagato. Quindi via, parole in libertà. questa secondo me è una di quelle carte che io definisco sbagliate. È troppo forte. È una carta assolutamente sbagliata per una postilla che è The Runner. Dov'è? Non lo trovo nel testo. The Runner has forced the runner. Sì. Runner non può fare jack out. Tu potenzialmente qui gli tiri in piedi un Janus e lo flatlini sul posto. Sì. È una cosa che è veramente sbagliata. Lo sconto è altissimo. L'abilità è fortissima. Ora, non verrà assolutamente usata nell'archetico più forte, che resta sempre il Fast Advance. Però permette sicuramente la creazione di server della morte che non hanno senso. È una carta di una forza spropositata. sì, sono d'accordo. Anche se te la trasciano subito dopo, comunque il lavoro suo l'ha fatto. Esatto, un bioroide pesante in faccia lo hai preso. Sì, sì. Francesco, carta dolcetto scherzetto. Tu arrivi, è sicuro, non sei sicuro, boh, ci provo, te li faccio usare questi bioroidi, vai là, e sì, i bioroidi te menano. Aspetta, c'è una postilla che effettivamente non stiamo valutando. Il runner sa che sta andando verso un Awakening Center. Per carità, questo è vero, e vorrei però vedere una... anche. Però per carità, cioè, non è una trappola, upgrade. Questo, sì, no, però è un upgrade, quindi quando il runner deve partire andare a esplorare il server, magari a stilare l'agenda che la porta sta lì ad avanzare, a X soldi, a Y ice, si fa i conti, però c'è la variabile, quale sarà quell'ice che sta nascosto là sotto? Viva la manina. Sapete qual è la manina, no? E3, feedback implant. Bisogna vedere, sì, se adesso si punterà a sperimentare un sacco questi cicciottelli bioroidi, l'unica sarà manina, però bisogna pur vedere, insomma. Se ce la sei. La manina è utile, come dite voi, è utile se usi il click per spegnere la Sabrodin, perché se tanto devo pagare, mediamente pago uno. Però se già con uno starto una run, se uso i bioroidi vecchi, ancora, i bioroidi nuovi scalo due click. Certo, ti trovi che sei scarico. La uso una volta, cioè per un ice. Non solo, in tal proposito ti permette più di un bioroide, quindi anche la possibilità di scegliere, ma rezzare una volta che, se per sbaglio il runner, magari un criminal che non gioca così tanti icebreaker di rompere le subroutine con i click, gli giri uno Z alla fine, la vediamo dopo, intorno al telecarte sempre qua. La vediamo, cioè, direi alla fine. È dannatamente troppo forte. Sì, guarda, l'unica cosa che mi tranquillizza è che devi, che perlomeno sai che potrai rompere le subroutine con i click, perché per forza è un bioroid, quindi vabbè. Però anche questo certo. Costringi quasi a farla grande primo turno, neanche faccio credito, no, ti devo rannare subito, non ci devo pensare. No, certo, sì. Va bene, dai, quindi è un game shifter, io un 4 glielo do. Sì. Non è un game shifter perché secondo me era Selfless Advance ancora più forte come mazzo, però crea la possibilità di fare dei server della morte enormi. Quindi un'altra tipologia di mazzo, diciamo, crea un nuovo tipo di mazzo questa. Sì, secondo me Creation and Control in generale ha un po' rievocato il Data Fort, cioè la serveroni da 4 ice l'1. Sì, che è una cosa anti-criminal, tra l'altro. Fra scorati anche con ABS, che finalmente ritrova il suo, come dire, il suo motivo di esistere, oltre che essere una 3x2. ABS io ancora devo, cioè, me lo sono scordato il giorno che qualcuno ha scorato un ABS e ha eseguito l'effetto. Un po' di tempo fa si faceva, adesso non più, secondo me ritornerà invece questa cosa qua. Da queste parti si chiamano acceleration beta fail, proprio perché ogni volta che gli attivi esce solo sugna. Esatto. Sì, va bene, quindi io un 4 glielo do, voi pure glielo date un 4, vero? Io darei anche un 5. Okay. Sì, no, un 4 glielo do. Va bene. Dai, passiamo a uno un po' più tranquillo, che è Bastion. È semplicemente un ice, costa 4 di forza, end run. Ma che vuoi di più dalla vita? Cioè, è semplice, neutrale, non costa influenza. E quando sei arrivato alla fine della tua creazione del mazzo, dici, ma c'ho poche barriere, mettiamoci un Bastion. è il Wall Static più. Esatto, è Wall Static più 1. Però sinceramente, dato il Wall of Static è una cosa da early game, e questo anche alla fine è una cosa da early game, non è che ti blocchi tanto, gioco Wall of Static al costo di uno in meno, onestamente. Sì, per il semplice fatto che l'apertura classica di primo turno Ice credito ti consente più facilmente di rezzare entrambi gli Ice se hai messo due Ice da early game, quindi Bastion in un certo senso ti va, come dire, un po'... È contrario. Sì. Va bene, insomma, non sono stati il research and development di Fantasy Flight, c'è avuto un momento così, erano in pausa caffè quando hanno fatto Bastion. Vabbè, io 3 comunque glielo do, perché non è che c'è niente di male, poverino. No, 3 sì, 3 ma si può dare. Io gli do un 2 perché semplicemente secondo me il Wall of Static è meglio, cioè esiste già una carta migliore di questa, secondo me. Lo capisco. Va bene. Allora, Bioroid Efficiency Research. è un'operazione, due punti condition. Ci sono altre operazioni condition che avete visto, che vi ricordate? Io no. Forse Oversight AI. Oversight AI, sì, forse sì. Operation condition costa 3. Sì, te lo confermo, Oversight. Sì, sì. Non mi vengono altre al momento. Costo di influenza 2. Allora, rezza un ice bioroid ignorando tutti i costi. Non che ci siano particolari costi se non quelli di crediti. Mi viene in mente qualche bioroid che si rezza come Farcher. No. No. No. E installa Bioroid Efficiency Research in questo ICE come un segnalino di condizione di ospitalità. Scusate la traduzione al volo dall'inglese. Comunque, Host and Condition Counter, cioè, è come faceva Oversight AI fondamentalmente. Con il testo che dice: Trascia Bioroid Efficiency Research e derezza Lost Ice, quindi l'ice che è ospitato, se tutte le sue subroutine sono rotte durante un incontro singolo. Vabbè, la riassumo dicendo: è Oversight AI che costa di più, la puoi fare solamente con i suoi bioroid, e se viene rotto tutto lo derezzi invece che lo trashi. Confermate? Sì, esatto, sì. Oversight AI più la versione potenziata di Oversight AI in un HP, chiaramente. Però in un HP c'è la postilla del bioroid. Vabbè, tanto Creation and Control l'hanno fatta, poverini. Hanno visto che HB era troppo scarso. Hanno detto: vai, facciamo la prima uscita dedicata proprio per loro, che sono troppo messi male. Mannaggia, sì, diciamo, intendo dire che mentre questa te la puoi pensare di giocare in altri mazzi, questa qui no, ovviamente. No, sì. E non ho la possibilità. Altri commenti non ce ne avrei da fare. Cioè, c'è qualche combo che vi viene in mente particolare? Tipo, non so. No, nessuno. No, cioè, lo discount per togliere l'effetto sorpresa, ma sconti il tuo bioroide preferito. Secondo me, io la vorrei questa provare con Stronger Together, che avevo montato all'epoca un mazzo Stronger Together, ma il problema era sempre il discorso economico, che non ha come l'identità core. Naturalmente, montando Stronger Together, per forza di cose un minimo di ciccionaggine bioroide ce la devi infilare nel mazzo, e c'avevi problemi fuori. Questa ti può risparmiare un sacco di problemi, perché alle brutte lo derezzi. Sì, infatti, il fatto che lo derezzi effettivamente lo rende veramente molto più interessante che Oversight AI. Esatto. E chiaramente molto più condizionale di Oversight AI, perché comunque... Sì, perché, però diciamo che io non ho mai visto un HB giocare Oversight AI, quindi a sto punto mi tocca poco, sinceramente, che è più situazionale. Sì, certo. Va bene, io un 3 glielo do. Non mi sembra di quelle carte da buttare, ma nemmeno di quelle che faccio wow. Anche io sono d'accordo con Francesco, perché secondo me è una carta che, se si gioca veramente fermo restando uno sta prendendo il mazzo data forte, è una gran carta. Ripeto, fondamentalmente, se per sbaglio ti trovi questa uno Janus, tu hai chiuso un server e tranquillamente per i primi turni ti scori agende da quanto ti pare con comodità. Sì, perché Janus c'ha 4 subroutine, vero? Sì. Sì, ecco, l'unico motivo per cui non gli do più di 3, secondo me, è proprio per il fatto che devi ostare un bioroid che chiaramente si rompe con i click. Ora, capisco che l'avversario perde il turno e tutto quanto, però, e che tu lo derezzi solo, però, cavolo, cioè, ho preso 3. Tre crediti, ho capito, però a 3 crediti gli ho fatto utilizzare uno, se non 2 click. Sì. Diciamo che sì, fuori casata da Game of Thrones, ma diciamo in HB è secondo me un 3,5 facile. Chiaramente fuori ingiocabile praticamente. No, sì, fuori droppa fino a 0, non c'è problema. Sentite, passiamo oltre. Voi quindi avete dato 3,5? Sì. Ok. Su Board Game DB gli hanno dato 5 stelline. Piacerebbe dare un'occhiata ai commenti. Non so se riesco a farlo. Ma guarda, io adesso una mia assunzione, ma suppongo che questi di Game Board Geek, di Card Game DB siano quasi tutti americani. Se vedi come giocano gli americani, capisci perché gli danno 5. Hanno un modo di giocare completamente diverso dal nostro. Sì. Per noi siamo molto più dinamici, più aggressivi, loro sono molto più statici, si prendono tempo, stanno lì a passare n turni a fare soldi, quindi alla fine ti girano due Janus sullo stesso server, perché tanto mi ha dato la possibilità di mettermi lì come corpo a cagare l'euro come se non ci fosse un domani. Sì, no, comunque sì. Adesso leggendolo molto velocemente i commenti, c'è molta diatriba, cioè sto 5 è stato dato, ma quello che farà... Sì. Passiamo a Borrowed Satellite. Allora, risorsa tipo Link, quindi può essere rotta da, come si chiama, Foxfire. Ok, costa 3, è una carta verde, Shaper. Costa, costo di influenza 2, ti dà più 1 Link e la tua mano è aumentata di 1. Io darei direttamente solo il voto, che cacchio dobbiamo dire di sta carta? Diciamo che quelle carte che la Fantasy Flight potrebbe evitare di stampare direttamente, secondo me. No, dai, no, fa un po' flavor. A me l'immagine piace, eh? Sì, esatto. Se fosse sembra solo per l'immagine, gli darei 5. Se fosse solo per l'immagine, sì, è bella. In effetti, è bella. Vabbè, io gli do 2 semplicemente perché non è una carta completamente U, cioè non è Tyrant. Però, sì. Per me è un 1, una carta inutile, sì, che non giocherei mai. Uno anche per me. Sì, sì, va bene. Cerebral Imaging Infinite Frontiers. Allora, è un'identità Byroid. La tua, adesso qui ridiamo, il tuo limite di carte in mano è uguale al numero dei crediti che hai nella tua riserva. Silenzio. Allora, io da fermo sostenitore di Monolith dico sicuramente questa carta avrà un grande successo. Adesso è inutile, completamente inutile, ingiocabile secondo me. No, ma ragazzi, cioè è completamente condizionale, non trovo nemmeno, cioè nemmeno dici ah cacchio, ma se il runner gioca così poi io sono finito, no, semplicemente anche da solo, cioè anche da solo, se pensa un mazzo che fa un casino di soldi e poi mi metto tutto in mano, ma come le pesco queste carte? Boh, poi a che pro devo pescare tutto il mondo in mano? Cioè. Ma infatti, cioè, boh, non so, è come trasformare la propria mano nel proprio R&D e poi dopo mi finisce il mazzo e ho perso, boh, non capisco. No, diamo uno e andiamo avanti? Uno, sì. e via andare, va bene. Andiamo avanti. Uno con una taglia sul qualcuno che riesce a farci un mazzo che ha senso. Un eroe che porta un mazzo a giocare con Cerebral Imaging. Infatti, cioè, non sono riusciti a far giocare Stronger Together da quanto è forte la versione base. Esatto. Pensa sempre. C'è da dire anche questo. Infatti. La versione base di HP. Tutte le identità HP si devono confrontare con quella base che è l'identità più forte. Sì, è come confrontarsi con Noise, capito? Cioè, no. L'unico problema che di Noise è che non c'ha le carte blu. Però per il resto Noise, esatto, è veramente sgravo. Comunque, Cerebral Overwriter. Allora, è un asset Ambush, questa mi piace molto, costa 0 da rezzare, ha un'influenza bassina a 2 e dice una cosa che ci piace molto: Cerebral Overwriter can be advanced, quindi è una trappola di quelle che possiamo avanzare. Se paghi 3 crediti quando il runner ha accesso a Cerebral Overwriter, fai un danno, un brain damage per ogni avanzamento che c'è su Cerebral Overwriter. Cioè, perché non è blu? Cioè, perché non è rossa sta carta? Io lo avrei sperato tantissimo. Infatti, probabilmente in un Jintaki la gioco tutta la vita. Ma una tutta carta la vita, genere. Ma chi c'è? Ma... Però c'è il discorso che in un HB, non lo so. Sì, cioè, ti danno le trappole, ma sinceramente preferirei giocare altro come trappola, tipo, poi vediamo il figlio della As, cose di questo tipo. Come no, certo. Però tutto sommato non è assolutamente, è una gran bella carta. Non la vedo in un HB, ma fuori di per sé è una carta fortissima. Io in un Fast Advance, se proprio devo giocare un asset che mi rompe, cioè che è un ambush, gioco ancora Aggressive Secretary. Perché, sì, perché mi allontana dal late game nel quale, esatto, il runner mi entra ovunque. Esatto. Sì, io pure, guarda, se io la proverei in un HB, non Fast Advance, tanto adesso ci avremo 12 miliardi di mazzi da sperimentare con l'HB, quindi ci può entrare benissimo perché comunque è un fake. E un'altra, secondo me, può rendere molto bene nel Veiland, perché al momento il Veiland non ha trappole, Quindi quando tu il Valiant installa una carta e ti mette due segnalini sopra, ora 4-3 nel 90% dei casi, al momento direi quasi 95% dei casi. Sì. Tanto mi dà tanto e devo mettere una trappola, io provo a mettere questa. Tanto i soldi, 3 crediti ce l'ho, non è un problema. Sì, abbassi anche la possibilità di fare uno scorched, cioè non devi fare il doppio scorched, non devi fare il doppio scorched. Sì, sì, sì, sì, ha senso. Jinteki e Wayland ringraziano. Ma io Jinteki sinceramente non la giocherei, devo essere sincero, perché tanto le trappole già ce l'ho in casata, quei 2 punti influenza li uso per l'economia. Però un tentativo glielo si può fare. Sì, considera però che il giorno che ti riesco a fare un paio di brain damage, il runner si caga addosso qualsiasi run fa, perché nella migliore delle ipotesi, quante carte ci avrà di primo turno? Usa due click e pesca, cioè te la riesco a buttare dentro in early game. Jinteki ha fatto con i Neuralamp, ti manda a casa in un attimo. Sì, cioè, quello sì, più. Però diciamo che più? Quando la devo insomma valutare, non mi immagino il caso migliore, mi immagino il caso più realistico, tra virgolette. Sì, corretto. No, nel senso che io la sostituirei eventualmente un Jumbug, cioè se giochi Jumbug su Jinteki probabilmente ci può avere più senso giocare questa qui, proprio perché il Jumbug è vero che te li fa doppi questi danni, però non rimangono, quindi invece Brain Damage ti dà la possibilità di come dire, benissimo, adesso mi porto a casa questo risultatino qui e intanto tu ti fai tutta la partita con il culo stretto, poi quando avrò possibilità con gli Snare o con i Neuralamp ti perché non sempre, magari quando l'avversario casca in un Jumbug hai la possibilità magari di chiudere la partita. Non mi è successo più di una volta di dover soffrire questa sorte. Comunque vai, secondo me verrà giocata. Io un 4 glielo do. Concordo, anche 4 e mezzo gli darei. No, un 4 ci sta. 4 ci sta. Un 4 perché mi apre la possibilità di giocare un Veyland che al momento odio come tipologia di mazzo. Quindi potendo mettere delle trappole, un 4 glielo do. Va bene, passiamo a Chakana. Allora, program virus verde, quindi shaper, whenever you make, allora, costo di installazione 2, è un costo di influenza 2, tutte le volte che fai una run su R&D metti un counter virus su Chakana. Se ci sono almeno 3 virus counter su Chakana, gli avanzamenti richiesti per le agende sono aumentati di 1. Wow. Qualsiasi cosa alza gli avanzamenti mi fa fare wow. Poi vedo che ci sono dei virus counter, dico vabbè. Diciamo che tu come dicevo anche per un po' tempo fa sul forum per The Source, è troppo poco, troppo tardi. È troppo poco, certo. Perché non è né questa né The Source l'equivalente di quello che è stato il carapace per il tag and bang. Quindi è è una soluzioncina piccola. Paradossalmente, stavo dicendo prima con Francesco, io la vedo meglio in un Anarch. Certo. Perché da virus te la puoi tutorare con il Gin, giochi probabilmente anche un Surge. Sì, certo. Che ti permette, in un panic mode, ci metto 3 segnalini sopra, il prossimo turno non scori. Quindi, di per sé potrebbe essere una bella carta, ma non basta per fermare il fast advance, quindi alla fine sarà inutile. Sì, non ho altro da aggiungere. Non, cioè il fast advance, prima di scorare dalla mano praticamente tutto quello che ha, ti fa il purge e poi inizia a scorare. Quindi non... Sì. Pure non fa impazzire sinceramente, anche perché con le carte che sono uscite anche prima di Creation and Control basta l'R&D interface per bloccare l'R&D, a quel punto mi interessa. Essa proprio scori con un segnalino in più, sinceramente, perché se io riesco a entrare e guardare sempre 2/3 carte a seconda degli R&D interface che riesco a mettere, sto sempre un passo davanti a te. Sì. È vero che magari questa in early può rallentare parecchio, perché comunque se riesco a entrarti almeno una volta a turno e tu non hai ancora visto l'agenda da scorare o comunque ce l'hai e non sei troppo sicuro, io 3 segnalini ce l'ho e un turno te lo faccio perdere, tanto comunque poi solo un di più ti faccio perdere un turno, però insomma non io, mi fa impazzire. Considerando che è un programma, l'ho già bocciata onestamente, perché programmi, cioè la memoria è sempre poca, e quindi con i programmi nuovi che sono usciti piuttosto metto altro, cioè, nel senso, fosse stato un hardware potevo anche valutarlo. Non, cioè, proprio non riesco a salvarla. Cioè, gli darei o uno o due, ma direi più uno che due. Io due, concordo. Oddio, due forse è un po' troppo basso. Due e mezzo, però. Dai. Sì. Una media di due, via. Una media di due, sì. Andiamo alla carta dopo. Cloak. Io la farei assieme al Dagger, che tanto è l'unica, l'unico modo per usarla praticamente. Ah sì sì, va bene, sì, Cloak and Dagger, giustamente. E niente, è un programma di tipologia stealth, adesso per ora c'è solamente questo, e costa 1, impegna 1 di memoria, è un programma shaper, 2 di influenza, un credito ricorrente. Usa questo credito per usare gli Icebreakers, e fin qui dici vabbè, se può fa, è una specie di, come si chiama, cyber feeder. Però mi tengo il cyber feeder. Sì, lo so che ti tieni il cyber feeder perché non è un programma, e poi a un certo punto, però dopo andremo a leggere, lo leggiamo subito, Dagger. E Dagger è un programma, è un Icebreaker killer, quindi rompe le sentries and routine, sempre shaper, costa 3 e ha 1 di memoria, e cioè ti impegna 1 di memoria, e sempre 2 come influenza di fazione, e niente, rompe una subroutine al costo di un credito. Attenzione, da 0 di suo di base di forza va a più 5, quindi fa esattamente come ninja. Però puoi usare questa abilità solamente spendendo crediti da una risorsa, da una carta, diciamo, da una carta stealth. Quindi l'unica carta stealth che è stata fatta su Creation and Control è questo Cloak. Quindi o giochi Cloak e Dagger insieme, oppure Dagger è un Icebreak killer che rompe le subroutine di Ice. Di Ice a costo 0, esatto, rompe rototarret, esatto. Vabbè, io passerei oltre, diciamo che questa carta, queste due carte insieme io non le valuto nemmeno. Senza, cioè, voto, sì, cioè al momento, sì, cioè, al hanno, momento non esatto. Talmente condizionali che non c'è nessun motivo per cui dare un commento. Diciamo che di per sé, se uno riesce ad avere i gridi stealth, Dagger è uno spaccasenti meraviglioso, veramente certo. Fortissimo. Certo. Bisognerà vedere se questa carta di post-stealth è qualcosa che hanno tirato fuori per fare Cloak insieme, oppure se hanno in programma di fare altri generatori di crediti, programmi di tipologia stealth. Non lo so, potrebbe anche essere. Per ora solamente queste due carte in combinazione, boh, non lo so. Ho un'idea migliore della Fantasy Flight. Di uscirà altro sicuramente, dai. Spero di sì. Sì, sì, lo speriamo tutti. Azione sospesa, direi. Sì, sì, esatto. Clone chip. Allora, questo è interessante, è un hardware, quindi già che è un hardware mi interessa. E, è verde, quindi è shaper. Costa 2 di influenza. Se lo trasci, installi un programma dalla tua mano pagando tutto il tuo, no scusate, dagli scarti, quindi dal hip, faccio sempre molta confusione, e installi un programma dagli scarti pagandone però il costo di installazione, e quindi niente, che dire, secondo me è dannatamente forte, pure per me, fortissima. Pure per me, per un fatto che non c'ha cost in click, quindi tu lo puoi usare tranquillamente durante una run, e ben vengano le femme fatale tirate fuori dallo scarto. Sì, sì, vedo cosa c'hai, se è un toolboot, la mia femme fatale torna dentro. Esatto. Poi la cosa anche divertente è che usando il turno del runner, se usi Kate come identità, l'hai anche scontato di uno perché hai passato il turno. Ah, quindi, certo, prima che passi stallo. Sì. Carina, in effetti non l'avevo considerato questo ulteriore vantaggio. E io gli do tranquillamente un 5, secondo me la vedremo parecchio. Ah sì, concordo. Sì, io pure. Sì, sì, perché a costo 1 Un Andromeda, io se fossi Andromeda la giocherei, perché tanto finisco sempre con Andromeda, finisco sempre una cartina la scarto, perché non essere aggressivi di primo turno è da stupidi. Quindi una run Andromeda, secondo me, anche di primo turno, che avrebbe 100.000 cose da fare, comunque la fa. Quindi una cartina la scarti, a sto punto scarti la carta che sai che ti vai a riprendere con clone chip. Chiaro, che ne... da quanti programmi giochi su Andromeda, ovviamente. Sì, no, certo, chiaramente. E bene, passiamo oltre, perché qui siamo troppo unanimemente concordi. Custom Biotics Engineered for Success è una identità Division, come tipologia di identità, avrà il suo senso in futuro. Non può includere carte Gintechi nel tuo mazzo, fine dei suoi poteri. Poi però guardiamo meglio e ha 22 di influenza. Wow. Ma che allora... me frega, include Gintechi nel mazzo. Ma noi siamo restando tutti amici dello Snare, però, eh. Sì, lo so, infatti sono d'accordo. Diciamo che fermo restando che Gintechi funzionino molto meglio fuori Gintechi. Corretto. Frazioni. Ma detto questo, il problema grosso di sta, per ora almeno, è che dato il parco enorme di carte dell'HB, dato l'HB la corp la più forte senza ombra di dubbio, avere influenza per aggiungere carte di altre corporazioni che sono mediamente meno forti di quelle che hai, che interesse vorrei avere? In futuro questa identità secondo me diventerà fortissima. No, io ti dico no, solamente meglio, una cosa. Custom Biotics 3 Scorched Dirt. Parliamone. Non lo so, io più che altro vedrei Custom Biotics taga di qualche tipo, anche uno Scorched Dirt, e basarlo sul Brain Damage. Questo certo. Potrebbe funzionare. Sì. Non lo so, però secondo me è una carta che acquisterà valore con il tempo. Questa. Chiaramente è sempre all'ombra della carta core. Purtroppo... Assolutamente, purtroppo quella lì è veramente troppo forte. È un credito gratis a turno, che è una cosa enorme. Sì, no, cioè primo turno apri e fai installo e c'hai comunque 6 crediti, non si affronta. Cioè. Vabbè. A me sembra una carta molto divertente, nel senso che spero che... per ogni deluxe uscirà un'identità di quel deluxe 45-22 che non può includere una seconda, come in questo caso, fazione, e quindi questo apre la porta a mazzi molto divertenti da giocare e da sperimentare. Sì, sì, chiaramente su questo mazzo qui mi aspetto di trovare molte più sorprese. Cioè, io da runner, se incontro un'identità di questo genere, faccio un sospiro di sollievo, perché non prendi crediti tutti i turni, però poi sto un po', come dire, sulle punte dei piedi, perché non so mai cosa cacchio ci potrebbe essere quando rezzi, perché sai, vabbè, con 22 influenza le sorprese sono tante. Però onestamente, cioè, qual è la sorpresa peggiore che puoi incontrare? È la roba di Gintechi, e se io so già che tu non la puoi giocare, boh, io a dir tanto gli do 3. Non lo so, per ora sono d'accordo, ma con secondo me può essere, diciamo, o meglio, gli do 3 considerando sempre l'identità base. Se non avessero quell'identità base, sarebbe assolutamente interessante e giocabile. Sì. Non è paragonabile a quella, però in futuro può crescere, secondo me. Io farei un 4 for fun. Sì, ok, ci sta. Va bene, passiamo oltre. Cyber Cypher, questa mi piace. Allora, Cyber Cypher è un programma Icebreaker Decoder. Costa 1 di memoria, 2 per giocarlo e 3 come influenza. Rompe una subroutine Codegate al costo di un credito. Ha il solito più 1 di forza al costo di un credito. Parte da 4 di forza, scusate se è poco. E a costo 2 mi sembra interessante. L'unico problema è che devi scegliere un server e Cyber Cypher si affeziona, sai com'è, e quindi vuole usare i suoi crediti e la sua forza solamente su quel server lì. E per me è una carta super forte, non è nemmeno unica, è forse ma in Riel. Il Riel è la carta di Riel. Sì, è la carta di Riel. Significa passare il primo ice del server dove lo punti gratis. Sì, è sì, vero sì. Che Riel giocherà con lo Yogosauro, senza certo. Dubbio alcuno. Però questa qui, comunque, prima che uno si faccia il setup con Dinosaurus più Yog, sì, beh, uno lo piazza su R&D o sul forte o su quello che è, e ha un ingresso garantito. Sì, sì. Questa sì, sì. Corriel, se ci metti pure Tinkering più All Saint Ink, ti diverti. Tinkering è un ma. Sì. No, con l'All Saint Ink pure ti diverti come tantissimo, ragazzi. Sì, io gli darei 5. Vedo che c'è un 4 stelle su CarGameDB, ma per me è anche 5. Cioè, a costo 2, 4 lo metto su R&D, ma cioè, ma che me frega degli altri? Cioè, ti faccio un R&D sì. Lock. Infatti, concordo anche io, è una gran carta 5. 4 e mezzo, ti è giusto perché c'è il limite sul server, ma una gran carta. Vabbè, sì, se non fosse il limite sul server, più mio bello. Sì, la classica carta sbagliata, sarebbe. Esatto. Va bene, Dagger l'abbiamo già detto. Daily Cast. Allora, è una risorsa, costa 3. È neutrale. Oh, finalmente un po' di roba neutrale. Metti 8 crediti dalla banca su Daily Cast quando è installata. Quando non ci sono crediti la trasci. Quando inizia il tuo turno prendi 2 crediti. Onesta. Cioè, è la carta neutrale che mi aspetta. È molto neutrale. Cioè... Se non avessi avuto un 3 di install, significa che ti dà. Quant'era? Non abbiamo fatto il conto prima. Sono 5 crediti nell'arco di. Nell'arco di 4 turni. In realtà 5. Guadagni 5 crediti alla fine. Non lo so, boh. Sì. Ma io perché giocare questa quando c'ho Katie Jones? Mi dirai, c'hai un click in più ogni turno. Per carità, ma la devo applicare a tutti i turni Katie Jones. No, in generale io tutte le economie burst, cioè quelle esplosive, le preferisco alle economie che ti danno soldi con ricorrenza di turno, che hanno però chiaramente il bonus di non consumarti il click. Non lo so. Sì, effettivamente il costo 3 non ci convince, forse potrebbe essere ottimizzata con quella... Con quella, come si chiama quella carta che ti dà il credito ricorsivo per... Ah no, poi è per gli eventi, no, niente. Non abbiamo nessun credito ricorsivo per le risorse per ora. Che poi non è ricorsivo ma è ricorrente, scusate. Ricorrente. Poi tra l'altro nei deck che magari hanno un link sufficiente si potrebbe giocare al posto di questa Underworld Contract, per dire. Sì, niente, va bene. Mi avete straconvinto che preferisco Aes of Pawnshop. Ma tutta la vita. E sì, dai, non gli diamo più di 2. 2, dai. 2 è onesto. Va bene, Data Pike. No, Data Pike l'hanno tutti accostato a quello che toglie il click, Enigma. Allora, è un code gate come Enigma. Costa 4, quindi uno in più. È neutrale. Il runner deve pagare 2 crediti se li ha, quindi se è possibile per lui. Se il runner non può pagare 2 crediti, finisce la run. Altra subroutine, end the run. Boh, allora, non so che dire. È il classico Ice in Early come dotazione. Il problema è che costa 4. Sì. Non vale proprio la pena. Metto Enigma tutta la vita. Sì, secondo me non vale assolutamente. Però Enigma non funziona al quarto click, invece lui sì. Sì, però e questo forza qui 2 se non c'hai i soldi. Però questo qui se non c'hai i soldi non ti fa passare. Invece Enigma, diciamo che il click te lo toglie, ma comunque la subroutine dopo va. Tu considera che è sempre un end run? Sì, sì, no, lo so, però considera sempre che allora alla fine è vero che con Enigma tu dici puoi farlo al quarto invece che al terzo, con questo comunque anche se lo per quattro la sub sta lì e devi pagare, però lo fai quando hai lo spacca con gate a tavola. Sì, certo. Adesso mediamente mi costa uno a parte lo yog che mi spacca 0. Sì, quindi sì. Si tratta di spendere un click in più, un credito scusami in più rispetto all'enigma. Preferisco a quel punto far perdere, cioè tenerlo un attimino in stasi con quel, cioè fermarlo scusami con quel click quando lo scopro, pagandolo 3 e non 4 e permettendo quindi di rezzare anche l'ice sull'altro server centrale che ho installato al primo turno. Sì, è corretto. Dal punto di vista della matematica in realtà sarebbe da preferire Data Pike, perché tu comunque paghi uno in più rispetto a Enigma. Però poi te lo ritrovi sempre lì e se il runner anche solo una volta subisce la, la subroutine per cui gli fa pagare 2, direi che ci siamo, perché comunque un click, se lo valutiamo 1 come valore in termini di soldi, ti fa pagare di più Datapike. Non sono sicuro di volerlo dismettere in maniera definitiva rispetto a Enigma. Non mi vorrei trovare nella situazione pesco, sono costretto praticamente a giocarlo al primo turno, lui più un ice a 3, certo. Faccio credito e ne ho 6. Mi fai la run dove ho il data pike, mi trovo a pensare se rezzarlo o meno, certo. Enigma vado più tranquillo, ti ho fatto, certo, perdere pure un click, quindi. No, ma infatti dicevo, dal punto di vista della matematica funzionerebbe meglio data pike, però effettivamente poi dal punto di vista del game flow, cioè del flusso di gioco, questa cosa dell'apertura è assolutamente, giustifica molto di più un Enigma. E buona, io gli darei un 3 semplicemente perché effettivamente se non ci fosse proprio un 2 o 1 solo perché l'uno è riservato per altre perle, diciamo. non è una carta brutta, per carità, però ripeto, saranno anche gusti personali, preferiscono Enigma, quindi uno sicuramente non glielo do, 2.5 non è così brutta, dai, è il quarto Enigma, via. Quando ce l'hai messi 3 ne vorresti mettere 4, ci metti data like. Va bene. E poi Godgate con Riel sarà proprio divertente giocarli adesso. Sì. Proprio, infatti, guarda, mannaggia. Ecco, una cosa, visto che abbiamo parlato di Riel, vabbè, poi magari quando arriva l'identità poi parliamo anche di questa cosa qua, riserviamola per dopo, c'è una domandina da farvi che ancora non ho risolto. Passiamo a Director Haas, questo qui ci divertiamo, è un asset executive. Costa 3 da rezzare, è Bioroid chiaramente, ha il massimo del valore di influenza, quindi 5. Hai un click addizionale da spendere ogni turno. Se finisse qui, vabbè, sarebbe sbagliato. Vediamo qual è il malus. Se il direttore Haas viene trashato quando il runner lo accede, quando il runner accede al direttore Haas, il runner lo aggiunge alla propria area di punteggio, quindi alla propria score area, e vale come un'agenda da 2 punti. Che dite? È sbagliata. Sì, è un'altra, me, carta sbagliata. Concordo. Continuare a dare alla corp più economia e che già fa troppo fast advance, ulteriore cosa fast advance, è sbagliata. Senza contare che la carta negativa è relativa, perché alla fine uno se la può installare tranquillamente in early dietro un paio di ice di quelli che fermano all'inizio il runner, ha il suo click in più per fare. Poi questo oggetto, comunque, è un asset, quindi lui lo può trasciare per un altro asset. Sì. E se è negli archivi, il runner non li prende i 2 punti a genere. No, infatti no, non li prende. Inoltre, per trasciarlo costa 5 di trasciarlo dopo essersi passato un servo. Ah, è vero, è una, sì, carta, esatto, sbagliata. Sì, sì, sbagliatissima. Attenzione, è unica. E quindi chiaramente, vabbè, non ne puoi avere più di uno, però in realtà non ha senso per il semplice fatto che a me ne basta solamente uno in gioco, e fra parentesi mi basta metterlo nel serverone gigante, perché nel momento in cui io ho quattro click, ma che me frega ad averci il serverone gigante per proteggere le mie agende, le scoro durante il turno. Esatto, le 3-2. Quindi io dedico al signor direttore, gli dedico il mio serverone super protetto e poi le scorro praticamente nel server non protetto le mie agende. Boh, secondo me è fuori di testa. È una carta da 5 a 8. 5 buona e non da 5 di, sì, anche perché trasciarla costa 5, ma cioè, ma siete fuori di testa. Costa 5, quindi 5. No, ma nel senso, comunque, di cazzo, cioè. E comunque ti puoi anche per me, cioè se questa tizia ti ha fatto scorrere 2 agende in fast advance e il runner arriva, spendi miliardi per arrivare, te la trascia e prende 2 punti agenda, chi se ne frega? Ma cioè, magari il vantaggio che ti ha dato è enorme, tanto tale che poi sta senza soldi, quindi ha voglia a scorare altre agende nel serverone. Parentesi, poi un'agenda da 2, cioè un'agenda che vi dà 2 punti, che vi dà 2 punti agenda, cioè, quindi scusate, insomma un'agenda che vi dà 2 punti, che ha come unica abilità per scorare questa agenda paga 5, ma io ce la metterei onestamente nel mio mazzo. Adesso poi non possiamo definire quanto dovrebbe costare di mettere una 4-2 che per scorarla devi pagare 5, ma quasi quasi quando mi fanno le run su R&D tutte tutte rosicate con il soldino a misura che poi arrivano su R&D, non mi possono trasciare manco Mining Corp. Cioè, imbeccano direttore Ass, si mangiano le dita. Chiaro, chiaro. Vabbè, dai. 5 proprio senza pensare. 5 sbagliata. Esatto, 5 più sbagliata. Va bene. Se ha Director Ass, c'è anche altre simpatiche cose da riservarci. Director Ass Pet Project. Questa invece è un'agenda. C'è sempre la signorina Ass in primo piano. Costa 3 da avanzare, ma ti dà solo un punto vittoria. Finalmente l'hanno capita. Quando riesci a portare a punti questa agenda, praticamente fai un server prendendolo dalla tua mano e dagli archivi. E questo server contiene fondamentalmente 3 carte, che possono essere un asset, un upgrade e un ice, come 3 ice e nessun asset e nessun upgrade, come 3 upgrade. Come un'agenda che ti sei scartato dalla mano perché ne avevi troppo con la poker face. Ah, vero, corretto. Sì, come sì. Un'agenda, un bel ice e un ash, tanto per stare tranquilli. Sì, esatto. Di possibilità ce ne sono parecchie. Sì. È una bella agenda. Attenzione, ho finito di leggerla, non ce ne può essere più di una nel mazzo. Vero. Vabbè, sì. E vabbè, è un signor limite che però effettivamente è giustificatissimo. Dai. È una bella agenda, secondo me sono le carte positive. Cioè, sì. Raggiabile senza un effetto esagerato, bello ma non esagerato, ci sta. Questa è una carta che mi piace. Vedo false lead con la polvere sopra. Sì. In un HP sicuro. No, no, ma anche in altri mazzi, perché poi dopo guardiamo un'altra agenda 3x1 che surclasserai false lead. E niente, io gli do 5 e anche voi, immagino. Io gli darei un 4 perché una 3-1 adesso ha soluzioni migliori dell'HB in un fast advance. In un altro server, in un smart, ci può star bene, perché ti apri un secondo serverino con magari anche il tuo asset economico, quello che è interessante. Io 5 gliela do perché non esiste solo il fast advance, quindi per me va benissimo. Sì, sì. Passiamo a Dirty Laundry. Questa mi piace un sacco. Allora, questo è un tipo di evento run, quindi ci aspettiamo già che nel momento in cui giochiamo questo evento si attivi una run. Costa 2, non è limitato alla fazione, quindi ha influenza 0, e dice: fai una run, quando la run è completata ottieni 5 crediti se è stata una run di successo. Che mi dite? Beh, nice. È gratis, sono 3 crediti gratis, diciamo, tra virgolette, perché abbastanza. La carta l'accedi comunque, non è instead of accessing, quindi sì, direi che è una carta assolutamente, in qualsiasi mazzo runner che non abbia un'economia eccessivamente florente, come può essere un criminal, come può essere magari uno shaper dopo un po', questa qui, per esempio, in un noise ci sta bene. A me è venuto in mente subito Andromeda. Gratis, si carichi. Perché è un click saver, nel senso è faccio soldi ma faccio anche la run. Quindi però Andromeda rischia, perché come dire, fa quello che gli americani chiamano un face check, cioè si confronta di faccia contro l'ice senza sapere se verrà terminata la sua run oppure no. È chiaro che la usi quando sei sicuro di arrivare. Esatto, quindi forse con Andromeda non è proprio ideale. Sì. Meglio sì, anche è anche una specie di bluff in un certo senso. Se tu vuoi forzare la corp a rezzare un ice, perché magari è un ice su R&D e un ice su HQ, puoi fare. Se vuoi forzarla a rezzare l'ice su HQ per fare la run su R&D, fai l'account siphon. Questo può essere l'equivalente su R&D. Insomma, puoi forzare la corp un po', obbligarla o a rezzare un ice o avere un netto vantaggio economico. Sì, sì. Secondo me è una carta buona, giocabilissima. No, in Andromeda ti direi di no, solo perché Andromeda io la vedo primo turno che si fa il suo account siphon se tutto va bene, quindi sì, sì. Sure Gamble o Easy Mark, Crypsis, segnalino, account siphon. Esatto, quella è la famosa sifonata perfetta. Esatto, che ne ho vista più di una, onestamente. Andromeda te la consente, quel malligone che c'ha. Senti, ma sì, che voto gli diamo? Io 4 glielo do. Concordo, sì. Non è una sì, buona sì, sì, sì. sì, sì, la vedremo giocare, come un po' come modded. Me la ricorda molto, perché ti fa ti salva il click, quindi. Efficiency Committee. Allora, questo è interessante. È un'agenda Bioroid, quindi sì, HB. Costa 4 per avanzarla, ti dà 2 punti vittoria, 2 punti agenda, e nel momento in cui la sei riuscita a portare a punti, ti dà 3 punti agenda da mettere sopra di esso, cioè, anzi, scusate, 3 segnalini agenda da mettere sopra di esso. Quando rimuovi un segnalino agenda, pagando un click chiaramente, quindi fai click, rimuovo un segnalino agenda e ottengo 2 click, quindi faccio gratis un Biotic Labor. Però attenzione, no, nel momento in cui faccio questa cosa non posso avanzare carte per il resto del turno. Per me è comunque molto forte. Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì, utile in tanti mazzi, perché comunque non ci scordiamo che il fast advance c'ha bisogno di soldi, quindi se in quel turno io ho 4 click, ok, non potrò avanzare, però ho 4 click in cui posso fare soldi, posso giocare carte di economia, posso pescare o quello che è. Possiamo ora attivare 2 melange in un turno, eh. Attenzione, che con questa poi con questa attivi 2 melange in un unico turno. Ah, volendo sì, fatti i conti. Certo. Esatto. Una carta molto forte, sono d'accordo. E non solo. Se non altro si sono resi conto che non puoi permettere anche di sì, avanzare, vabbè, roba. Okay. Fortunatamente sono messi una mano sulla coscienza. Un altro effetto molto bello è se sono riuscito a scorare PSF, Private Security Force. Anche. Ti ci uccido. Se per sbaglio è taggato, esplode. Fortuna che HB e non è NBN. Sì, no. In realtà questa la vedrei in sostituzione della PSF, sì, veramente per un deck alternativo HB, dato che ho questa 4-2 in casata. Che vuol dire appunto per fare un soldo per installare una carta, un hedge fund che magari ho in mano, qualsiasi cavolata, basta che non avanzo per prendermi dei soldi sul private contract, che ne so. Sì, sì, sì, molto forte, molto forte, anche perché poi puoi fare proprio un'esplosione di click, perché puoi toglierli tutti e tre contemporaneamente, quindi minimizzi il tuo turno senza avanzamenti per magari massimizzare la tua situazione a tavola mettendo degli ice, facendo soldi. Sì, sì, buona buona. Tra l'altro io non l'avevo notata questa cosa, lo sai, avevo assunto che si poteva sola, però effettivamente non ti dice limit once per turn. È pesantissima come cosa, una doppia miniera. Fondamentalmente fai un turno in più, cioè in un turno fai 2 turni, perché si spendi 3 click e ottieni 6 click, quindi fai un net di 3. Fai un turno in più, via. Sai, ho scorato questa agenda e non solo, faccio anche un altro turno. Benissimo, ciao. Anche perché ricordiamoci che questa cosa potrebbe succedere nello stesso turno in cui tu scori l'agenda. Cioè, certo. Advance, turno dopo advance, esatto, bravo. Advance, e poi mi faccio il mio turno addizionale. Mamma mia, che magari tu contavi di trasciarmi dopo avermi fatto scorrere la gente. Ma minchia, guarda, chiaro. Va bene, 5. Va bene, andiamo avanti. Sì, sì. Va bene, allora Asher, se ne è parlato tantissimo durante tutto il periodo in cui aspettavamo la spoiler completa. Asher era uno dei primi che avevamo visto. È un evento run, costa 3. Ha un costo di fazione, quindi ha un costo di influenza pari a 5. Fai una run su headquarter, quindi limita la run solamente sulla mano. Se ha successo, invece di accedere alle carte, puoi riarrangiare gli ice che proteggono tutti i server, quindi non solamente headquarter. L'importante è che tu mantenga lo stesso numero di ice nei vari server che riorganizzi. Non so che dire. No, è una di quelle carte che mi lascia un po' boh. Allora, questa è una di quelle carte che temo. Queste sono le carte che corrono il rischio di essere profondamente sbagliate. Ci sono 3 considerazioni da fare. Data la pesantezza della carta, questo far sì che contro gli shaper adesso tu l'HQ lo devi proteggere, sicuro. Mentre prima magari lo lasciavi più o meno sprotetto o poco protetto, adesso è pericoloso farli entrare. Secondo punto, questa carta da solo ti ammazza i server, se ci fosse ulteriore necessità di ammazzarli, distrugge i server Jinteki. Perché certo, uno prende, anche se non hanno rezzato nulla i Jinteki, perché vogliono fare il rez solo quando sono sicuri di ammazzarti, prendi le carte, le mischi, le distribuisci a caso, ecco lì che probabilmente la sequenza chum datamine o cose di questo tipo gliel'hai distrutta. Sì. Terzo punto, questa qui con Riel è un'altra carta pesantissima, perché uno scopre un po' i Codgate, fa la sua bella run su HQ, si mette la sua trafila di Codgate su R&D ed ecco lì che con lo Yogg comincia a entrargli come burro. Obblighi la Corp a trasciarsi, prende tutti gli Ice su R&D e ristallare Ice. Beh, attenzione, anche Gordian non è male in questo caso, non solo Yogg, per il semplice fatto che gli Shaper hanno molti Icebreaker con fino alla fine della run, e quindi ti puoi fare tutta la tua bella sequenza nella quale vai a mettere il più grande in cima al server e poi tutti gli altri mantenendo la forza. Chiaro. Vabbè, io la vedo però con Cypher. Sì, certo. Sì, metti tutti i Codgate dove c'è nel server scelto da Cypher, che fondamentalmente sarà R&D, a meno che rari casi. Sì. E la mia domanda è, sarà forte tanto quanto, cioè è una carta un po' troppo da late game secondo me, non lo so, non riesco a dargli con tutta questa forza, questa incisività. Sì, no, effettivamente ci sono carte con cui si energizza maggiormente, appunto la nuova Real che poi vediamo, ma lo stesso anche Inside Job, perché se te li giochi fuori casata nello Shaper può essere veramente un palo, che ti metti quello più ciccione fuori e così lo salti sempre a due. Vediamo, effettivamente più passa il tempo e più prende forza come carta, questo mi dà questa impressione. Voi quanti ne giochereste? Due? Io per ora nel mazzo sperimentale che ho fatto con Riel, che ovviamente non ha ancora visto la luce, anche se mi è appena arrivata la news che il primo 2 agosto mi arriva Creation and Control, quindi io per ora in quel mazzo sperimentale ne ho messa uno, perché io la vedo come la carta che se non ti arriva te la cavi uguale, se ti arriva potenzialmente chiudi la partita. Uno per sperimentale, poi magari vedo che mi è arrivata, non mi è servita, tolgo e diminuisco di conseguenza il mio voto, oppure arrivo, cacchio, ogni volta che mi è arrivata ho chiuso partita, allora la metto magari anche in tre non penso, ma tra uno e due direi che ci può stare assolutamente. E poi è fighissima come carta. Sì, anche la grafica è super figa. Sì. Sì, io pure vorrei testarla, vorrei dire. Ancora non ho avuto modo di provare, di fare qualche simulazione, qualche test. Però effettivamente è quella carta che, classica carta che deve essere giocata al momento giusto, al punto giusto per cambiarti la partita. Prima o dopo non ha senso. Sì, fortunatamente è una di quelle carte che te la cambia da sola, perché molte altre carte che invece devono essere giocate in combinazione poi perdono tutto il suo potere, perché chiaramente è troppo condizionali. Questa da sola fa il suo lavoro, però io gli darei un 4 perché ne vedo il potenziale, ma guarda, per come sono fatto io gli darei più 3 che 4. Io gli do un 4,5 sulla fiducia. Io 4,5 mi sembra ancora troppo, dato che non l'ho testata, e questa mi sembra una di quelle carte che veramente la devi giocare, la devi toccare prima di valutarla. Sì. Però effettivamente essere forte è forte. Partiamo da un 3,5 come base d'asta. Sì. Anch'io sì, un 3,5. Exile, Street Hawk. È una nuova identità Shaper, Runner, e quindi ha un link di base di 1, e tutte le volte che installi un programma dalla tua pila degli scarti peschi una carta, e l'influenza e le carte sono base, quindi 45-15, mi sbaglio? Leggo male? Link è uno. È cut con un'abilità diversa. Sì, esatto. E non mi convince per niente. Io personali, i mazzi riciclo mi sono sempre piaciuti. La cosa che vedo, le potenzialità ci sono, perché comunque di carte che ti permettono di rimettere in gioco programmi ce ne sono parecchio. Ora, i grossi limiti che vedo sono due. Uno, non c'è tanto da fare con la giostra di programmi, nel senso, mancano secondo me carte che ti dicano quando scarti un programma, oppure quando rimetti in gioco fai un'altra azione. Questa è l'unica abilità che c'è che fa qualcosa del genere. E l'altro grosso limite è la memoria. che adesso come adesso grossi boost di memoria che ti permette di giocare con tanti programmi, che poi mi sembra che è il gioco verso cui stanno spingendo gli shaper, non è che ce ne siano alla fine. Però a me piace un sacco come carta, non so se sarà mai giocabile o se converrà mai giocarla, però mi ispira un sacco. Sì, beh, è molto shaper il personaggio, è proprio, cioè, calzante. Sia il professore che lui sono due personaggi di quelli che dici: ah, vedi, gli shaper sono proprio, me li immaginavo così. Guarda, a me al momento non conviene. Devi fare un mazzo incentrato sulla meccanica, appunto, del riciclo. A parte il Retrieval Run e il Clone Chip che abbiamo visto prima, c'è, cioè, pure il Test Run. Però insomma, non lo so quanto possa pagare questa meccanica del metto, tolgo, rimetto, risvendo, reintroduco, ritolgo. Sì, non lo so. Ma per il semplice fatto che ci sono pochissimi effetti stile Femme Fatale. Nel senso, ce ne fossero di più, quasi, sì, quasi. Sì, no, col Femme Fatale è molto divertente come cosa, però insomma, una volta che l'hai messo e ti sei loccato quel server che ti interessa, amen, cioè ci entri e basta, non ha più senso continuare su questa strategia. Se poi non sfrutti appieno la sua identità, tanto vale il gioco kit. Sì, va bene, manca io due. Io gli do per ora un 3, magari in futuro sarà giocabile molto di più. Però a me piace, però ammetto che sono un po' di parte. Parto pure io da 2. Sì, stupitemi, convincetemi a dargli 3. No. Va bene, dai, passiamo a Exploratory Romp. Allora, a parte il fatto che io romp non è una parola che conosco, quindi adesso ci guardiamo subito che cavolo vuol dire romp. Dizionario inglese: comedy, farce, playful comedy, una farsa, commedia spassosa. Commedia spassosa, sì. Giocare vivacemente, divertirsi. Ecco, quindi ne sappiamo una. L'immagine rende, diciamo. Sì, in effetti. Allora, è un evento che fa una run, costa 1 da giocare, è verde, quindi shaper, l'influenza è 2, e dice: fai una run, se ha successo, invece che accedere alle carte, e a me sta frase onestamente non mi è mai piaciuta, rimuovi fino a 3 avanzamenti da una carta che sta proteggendo questo, il server attaccato, o una carta del server anche, single card, in or, sì, esatto, o una carta del server. Quindi potresti cercare di depotenziare un Ronin perché sai che è lì, e poi altre cose, togliere i counter da un ice wall, ditemi, sì, altro. Ma ti posso dire una cosa, no? È l'attacco al server, quindi se perché dovrei togliere 3 counter al Ronin quando io ci arrivo e lo posso trashare? Non ha un utilizzo, cioè, almeno magari sono io, ma non vedo un utilizzo di questa carta. Vabbè, è l'unica, è per vedere un bluff invece di usare un infiltration, e se è modo di entrare facile è vedere un bluff di un Jintei. Ma non vedi un bluff perché devi accedere, togli 3 avanzamenti perché dici almeno così non mi brucia se è una trappola, poi devo fare un'altra run, accedere, esatto, di nuovo. Esatto, t'ho detto, se non hai l'infiltration è un modo, ho detto il modo più efficiente che esista, e che ci serve un solo click, però è vedere un bluff che prevede 2 run. Mamma mia, mi sembra, vabbè, per me è un 1 e possiamo uno e ringrazia la signorina uno, lì che sì, sta... pure secondo me mi tengo infiltration tutta la vita. No, ma poi c'è, cioè, ragazzi, cioè, se devo fare un effetto che invece di accedere, cioè la run deve essere di successo, e in più non mi fai accedere alla carta, devi fare un effetto fighissimo della Madonna. Cioè, non puoi fare un effetto, cioè devi fare account iPhone. O Asher. Poi fosse puoi rimuovere 3 advancement dove ti pare a te, già ci potrei pensare, magari, perché sai, entri sul server sprotetto di economia, cioè, sta avanzando una 3-5, gli faccio perdere un turno. Ma così è proprio inutile, totalmente inutile dal mio punto di vista. Beh, se fosse stato rimuovi 3 avanzamenti da dove pare, sarebbe stato un 10 su 5, eh? No, ma comunque no, secondo me sarebbe stata una carta poco giocata, però... Bah, insomma, se tu c'hai la cartuccia d'economia, come dici, te, buttata lì, ti entro, ti tolgo 3 avanzamenti da dove voglio io e ricomincia da capo. Beh, no, sarebbe stata una carta contro la quale la corpo ci avrebbe dovuto, diciamo, impostare uno stile di gioco. Così invece, no. Anche no. È ingiocabile. Va bene, non ci spendiamo altro tempo. Feedback filter. Hardware. Yeah! Ci piacciono gli hardware. Costa 2 da giocare. È verde, quindi Shaper. 1 di influenza. Spendendo 3 crediti previeni un danno net damage. E se la trasci previeni fino a 2 brain damage. 1 e passiamo oltre? Sì. È un net shield più più. Tu giochi il net shield? No, e allora serve. Ecco, infatti. In altri termini. Va bene. Allora, freelance coding contract. È un evento lavoro, costa 0 da giocare. È verde, Shaper, 1 di influenza. Scarti 5 programmi dalla tua mano e ottieni 2 per ogni programma che hai scartato. Scarti fino a 5 programmi dalla tua mano. Quindi, che mi dite? La compagna di Exile. Se mai Exile risulterà giocabile, questa è una carta che devi avere. In tutti gli altri casi non ha senso, secondo me. Per quanto vuoi giocare con tanti programmi, se non pensi di riciclarli, non li metti solo per scartarli. Anche perché se pensassi quello giocherai Aesop, non giocherai lei. Non lo so, no. Per ora compagna di Exile e basta, non vedo altri usi. Ma anche del professore, quindi comunque una carta for fun. Sì, immagino il professore che metta programmi magari dedicati per singole corp che scarta se non sta giocando con quella corp. Sì, per adesso sinergizza solo con quello, non ha nulla di più. Sì, anche perché comunque sì, puoi scartare fino a 5 programmi, ma per massimizzarla vuol dire che devi avere 6 carte in mano, di cui 5 programmi è lui. Quindi... Sì, no, noto solo ora che il fashion cost è 1. Non so se Andromeda lo vuole sperimentare, però insomma, deve essere Andromeda parecchio programmato. Sì, quello con i data sucker e il full rig Anarch. Cioè, ma dico, se c'ho il full rig Anarch, ma perché lo devo scartare? Cioè, non lo so, per fare i soldi, vabbè. Secondo me è un 2 perché può avere un uso insieme a un'identità che è stata rilasciata adesso. Ma per vabbè, il resto... solo perché sei te che ami quell'identità. Perché mi piace questo scartare nel cestino e riciclare. Vabbè, secondo me è 1, allo stato attuale è 1. Sì, anch'io. Oh, passiamo a Gila. Non so come andrà pronunciata questa Gila o Gila, non lo sappiamo. Io direi Gila Hands Archaeology. Ma sì, assumiamo di sì. Ma sì, dai. Allora, è un'agenda neutrale. Ti dà un punto vittoria a fronte di 3 avanzamenti. Ma nel momento in cui l'hai portata a punti, quindi l'hai messa nella tua score area, e con 2 click spesi insieme ti dà 3 crediti. Quindi fa fondamentalmente government contracts un po' più sfighe. Azione light, sì. Però anche più facile da scorare. Boh, allora, effettivamente in una corp che c'ha un po' di problemi di soldi è pensabile. Gintechi. Per esempio, tanto per dire ora, tanto più che comunque è anche un net damage, diciamo, oltre al fatto che la scori. Sì, oltre al fatto che poi hai questi crediti. Ci può stare. Insomma, l'effetto è quello che è, ma diciamo che uno deve lavorare con le cose che ha. Se non sei HB, questa è comunque economia che entra, quindi... Sì, che il runner non può toglierti, quindi dai, alla fine è buona. Io la vedo... cioè, è il sostituto di False Lead. Quando avresti messo False Lead, probabilmente adesso metti questa. Sì, salvo un Replicate Imperfection o cose del genere, dove False Lead magari è più utile, però sì, ci può stare assolutamente. A me sinceramente non fa impazzire, ma perché a me non fanno impazzire le 3-1 come rapporto. Quindi parto un po' col naso storto nella valutazione della carta. L'effetto alla fine ci può stare, perché non è raro che passi alcuni turni facendo 3 click, 3 crediti. Così ne fai 4 invece di 3, è un click che hai guadagnato e non si butta mai, non ci si sputa mai sopra. Quindi da provare, può essere utile per splashare magari qualche archer. Ah, sì, questo sì. È vero. Mi piace questo approccio. Da provare qualcosa a sorpresa così. Però diciamo che Nervenant non ce la metterei, perché tanto a uno già ce l'hanno. Quindi sì. Non andrei. Anche nell'NBN, sinceramente, c'è già il breaking news. Beh, però nell'NBN. Oh. Ah, sì, no, capisco perché. Però nell'NBN con la misleading, la mid-season replacement, forse potrebbe aver senso metterci qualche agendina in più. Ma no, in realtà, avendo le breaking news. Ma oddio, se il tuo gioco è puntare fortemente su mid-season e poi scorcettare come se non ci fosse un domani, allora sì. Cioè, butti proprio flatline pesante per mazzate in testa, allora sì. Va bene, dai, io un 3 comunque mi sento di darglielo, però capisco se gli date 2, lo capisco. No, per me è un 3 finché nel Jinteki non esce fuori la 2-1 che dovrebbe arrivare con il prossimo ciclo. Ah sì, la gestione dei bioroidi, come si chiama? Sì. La... Sì, sì. Allora veramente cominci a stracciarci anche un arcerino, inizi a pensarci. Sì. Jinteki Archer mi piace l'idea. Io gli do 2 perché non mi piacciono le 3-1. Sì, ok, ci sta. Haas Arcology AI. Allora, è un asset da rezzare, costa 2. È un Ice Byroid, quindi costo influenza 4. Haas Arcology che può essere avanzata solo quando non è rezzata. Io ci sono cascato, all'inizio avevo letto molto frettolosamente Only While Rezzed, perché le altre carte che avevo visto in passato, alcune di queste sono Only While Rezzed, gli Ice sfigati per esempio di Wayland. Invece questa solamente quando non è rezzata, e adesso capiremo perché. Spendi un click, togli un token avanzamento e ottieni 2 click, la solita carta sgravatella. Sì, si usa solo una volta per turno questa, però. Ah sì, è vero, sì, solo una volta per turno, perlomeno così. Ma è sbagliata. Sì, è sbagliata, c'è un cazzo da dire. Per il semplice motivo che anche usandola proprio nel modo più brutto possibile, cioè quella metto un click, la giro per prendermi un solo click, quindi sfruttando una volta sola, costa uno in meno del Biotic Club. Sì. È veramente sbagliata, senza contare che, ripeto, mettendola la avanzo un paio di volte, la rivelo, tu obblighi il runner a fare una run, no, su attenzione, quel server. Prima la rivelo. Sì, hai ragione. Però la rivelo sul server anche senza avanzarla. A maggior ragione se la avanzo una volta. No, prima posso avanzare solo a rezzare. Quindi la avanzo, la rivelo, l'avanzo un paio di volte, la rivelo. Io obbligo il runner a fare una run lì, perché altrimenti io ho 2 Biotic Clubber gratis sul tavolo. È veramente assurda. È una carta, un'altra carta sbagliata questa, secondo me, che spinge ulteriormente verso cost, fortunatamente trash cost 1, quindi perlomeno è vero, ma basta avere un serverino minimale in cui comunque al runner costa entrare, che io comunque l'ho obbligato a fare una run invece di concentrarsi su R&D. Sì. È una carta sbagliatissima, secondo me. Secondo me questa non è da server minimale, questa è da server forte, in cui la metti e ci metti 2 segnalini sopra. Poi quando c'è la 3-2 in mano la metti senza server, strack, scorata. Il runner non te l'ha torta, c'è un'altra 3-2, strack, scorata. Finisce l'effetto dell'Ass Arcology, installi la tua nuova agenda sul server della morte dove c'era l'Ass Arcology. Oppure giochi Matrix Analyzer. Oppure giochi la Mercy anche, però... Che cattiveria giocare Matrix Analyzer su questa, è veramente pesante. Sì, no, veramente molto forte, molto forte. È sbagliato. Definizione è questa. Sì. No. Dai, 5 e passiamo oltre. Sì, vai tranquilli. Sì. Allora, passiamo a Heimdall 2.0. In teoria dovrebbe essere un miglioramento di Heimdall, vediamo se lo è. È un Ice, chiaramente Barrier Byroid AP. Costa 11 da giocare, un costicino così tranquillo, e 3 di influenza. Il runner può spendere 2 click per rompere 2 subroutine, quindi deve farlo tutto insieme, quindi per rompere 2 subroutine deve spendere 2 click, e le subroutine sono un brain damage fine della run e un end run. Non so che dire, cioè costa talmente tanto che dico vabbè, lo gioco con tutto quello che non mi fa pagare i costi di Reds, però boh. Sì, diciamo che è molto più realistico giocare Heimdall 1.0. È ovviamente più forte perché costa di più, però direi che tutto sommato, insomma, alla fine la forza uno se ne gli interessa poco nei Bioroid, perché sì, tanto comunque mediamente se è troppo forte te lo rompono con i click, sì, e Heimdall è anche quello base, è forte a sì, forza 6. Quindi sinceramente, per carità, fa sprecare un click in più, perché per bucare questo servono 4 click in teoria per evitare l'end run, però secondo me non vale la pena. Sì, cioè se lo vuoi rompere con i click o ti becchi un brain damage, esatto, oppure oppure no, cioè oppure non passi, perché claro, salvo il Niters. Sì, esatto. Sì, è sicuramente cioè, ha molto meno malus rispetto a Heimdall dal punto di vista del rompo le subroutine con i click. Sto costo 11 mi fa dire vabbè, allora troviamo un modo per giocarlo. Però... senza rezzar, cioè senza pagare, no, il costo di rezzo. Sì, è vero che alla fine hanno aumentato di 3 il costo, solamente aumentando di 1 la forza, però c'è questa meccanica del doppio break rispetto che al singolo. Però considera che nella stessa espansione c'hai Bioroid Efficiency Research. Sì, sì, sì. Te lo rezzi a costo 3 invece di 11, o al limite un buon candidato che metti su Awakening Center. Certo. Che se glielo metti a sorpresa e quello ha finito i click e non riesce a breccare quello che deve breccare, c'è il rischio che si prenda 2 brand damage in fronte così, d'amblè. Sì, perché sono le prime due effetti delle sabrutine. Anche perché lo sconti a 7, quindi questo lo caleresti a 4, lo rezzeresti a 4 con la Waking Center. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che tu puoi giocare sia all'1.0 alla vecchia maniera sul server e a sorpresa l'Aimed al 2.0 oppure scontandolo. Secondo me lo vedremo in questi data fort se avranno senso di esistere rispetto ai Fast Advance. Attenzione, il cambio di regolamento da torneo sicuramente apre un po' un piccolissimo spiraglio per i data fort rispetto ai Fast Advance, perché adesso vincere con la corpo è molto più importante che invece scorare tante agende. Il problema è che il Fast Advance non c'è anche. Il problema sì è quello, cioè che non si ferma a 6, che non si ferma a 6. Niente, io gli do un 3. Sì, pure per me è una bella carta, perché tutti i Bioroid hanno un rapporto forza costo e routine allucinante, però l'Heimdall 1 secondo me è meglio, più giocabile. Io ho 4. Va bene. Passiamo a una bellissima carta che si chiama Howler. È una trappola. Wow, una trappola viola. Bioroid ha finalmente anche lui la sua trappolina simpatica, come Ice, chiaramente. Costa 1 da giocare, ha 1 di influenza. Ma attenzione, come altre carte, questo 1 di influenza non vi inganni, perché può installare l'effetto della carta, ha a che fare con i Bioroid, quindi fondamentalmente è come se ci avesse 5 di influenza. Comunque, la subroutine ha un'unica subroutine che dice: può installare e rezzare un Ice Bioroid dalla tua mano o dai tuoi archivi, ignorando tutti i costi, mettendolo direttamente dietro Howler, quindi in una posizione che poi il runner lo dovrà incontrare. Se lo fai, derezza questo Ice e trascia Howler appena la run è completata. Quindi se il runner fa jack out, Howler si trascia e l'ice che hai messo si derezza. Ma onestamente, a me mi sembra veramente sgravata, cioè non lo so. È assolutamente forte. Mi sono mangiato le mani, perché all'inizio non avevo letto a piece of Bioroid Ice, quindi ho detto questa nel gin tag è già dentro. Sì, peccato. Invece no, purtroppo mi fa mangiare le mani anche per un'altra ragione, perché la corporazione famosa per le trappole dovrebbe essere il Gintè, che gli hanno dato la migliore di tutte. A noi abbiamo preso un Whirlpool, loro hanno preso un Howler, cosa che mi fa girare estremamente. Terza l'abilità è di una forza mostruosa, perché è un end run, equivalente alla scritta, sì, di un end run. Scomba da Dio anche con l'Awakening Center, perché prima glielo fa incontrare con l'Awakening Center, lo trasce e poi glielo ritiri davanti con l'Howler, tanto per stare tranquilli. E per di più, insieme a un Chum, che è uno di influenza, quindi si può mettere benissimo, sta alla grande, perché è una trappola P, quindi generalmente non si rompe, e uno, il Chum, gli continui a fare danni, lo lasci lì finché puoi fargli danni, poi quando decide di iniziare a breccare il Chum, oppure ti serve di fargli un end run, attivi la sua abilità, perché la sua subroutine non è obbligatoria attivarla, gli installi un altro Ice che verrà a sua volta protetto dal Chum, Madonna, e gli fai un end run. cioè... è una cosa che è mostruosa. Ripeto, è una carta secondo me onesta, nel senso che è una carta che non va nell'ottica fast advance. Io sono lo gioco il fast advance perché è il mazzo più forte che ci sta, ma è un mazzo di una noia mortale antisportivo. Sì. Però questa qui è una carta che va nell'ottica giusta, ma nell'ottica di un mega server, quindi far spingere a giocare le run e a non scorare le cose dalla mano, è dannatamente forte, di una potenza inaudita. La cosa veramente notevole è quell'installazione dagli archivi. Quella è veramente forte, perché effettivamente scomba con un'infinità di cose, a parte le Waking Center che è appena stato inserito, ma anche con lo scarto dalla mano, un imp che ti ha trashato l'Emdal, che sennò si sarebbe trovato sui denti Noise il turno seguente. Quella è la cosa veramente forte, secondo me, della carta, quella parola archivi. Sì, sono d'accordo, è di una versatilità impressionante. Sì, perché se non avessi detto archivi, forse nel late game avresti avuto un po' anche problemi magari a metterci l'ice che volevi. Magari l'icino piccolino ce lo metti, però quello che ti interessa per davvero non ce lo metti. E invece fa sì che non è mai una carta morta quella parola, sì, esatto, là. Esatto. Bravo, buona analisi. Io gli do il solito 5. Assolutamente, sì, concordo. Sì, sì, su tutta la linea. Ice Analyzer è una carta verde, quindi Shaper è una risorsa virtuale, costa 0 da giocare, è 1 di influenza. In qualsiasi momento la corporazione rezza un ice, metti un counter credito in questo Ice Analyzer. Puoi usare i crediti sull'Ice Analyzer per installare i programmi. Oh, ti dirò che non mi dispiace. Sì, però è la versione sfiga di Compromised Employee. Esatto. Beh, dai, costa 0. Non è proprio... sì, è vero, si ripaga prima potenzialmente, però è anche più limitata, perché certo, invece di prenderti un credito in tasca, insomma. Cioè, quelli sono non lo so, cioè, come non... ma a me fa schifo il Compromised Employee, ma non mi piace neanche questa, però... Per esempio a me piace una cifra Compromise Employee, non te la sostituirei mai con questa, perché quel credito ce l'hai subito appena rezzi l'ice e lo puoi, essendo cash, lo puoi investire a tuo piacimento. Qua ci devi installare un programma, questa è in late, poi se non devi installare più programmi che fai? Te la devi sui denti? No, sono d'accordo, non ce l'ha, cioè gli Shaper non ce l'avevano, adesso ce l'hanno, chiaramente. Come sempre, tutti i runner devono succhiare nei confronti dei criminal e continuano a farlo. No, per carità, mi sembra Riel ha 12 di influenza, mi sembra di ricordare, quindi sì, magari sì, il Riel sì, ci potrei pensare, perché ho 3 crediti da togliere e tolgo subito magari uno o due Compromised Employee che ho nel mazzo per mettere questa, per dire. Sì. C'è da dire che Compromise da Employee, anche se ti capita in late game, te la dai sui denti, perché ormai i giochi sono fatti, quello che c'è. C'è comunque il credito ricorsivo di Trace, sì, quello sì. Però per quello non piacciono nessuna delle due, però vabbè, de gustibus, diciamo. Però questa secondo me sì, è la versione depotenziata di Compromise da Employee. Ma io un 3 glielo do comunque. Io un 2. Però per gusto, parzialmente anche per gusto personale. 2 perché c'è già Compromise Employee. Se non ci fosse stata, di dire 2,5. Come sei magnanimo. Sì. Senti ragazzi, siamo arrivati alla fine della pagina. Poi per chi ci sta ascoltando, vedrò di mettere il link anche alla pagina che abbiamo letto, che così segue bene tutto il discorso. Anche perché sennò diventa un podcast di 6 ore di fila. No, ma infatti adesso qualcosina proverò a tagliare, cercare di fare un podcast un peletto più corto. Però è uscita un'espansione deluxe super gigante, bisogna anche concedersi un momento per stare, se uno vuole ascoltare, si concede quell'oretta magari di macchina che si fa da un punto all'altro dell'Italia o della Spagna, visto che so che sei in Spagna. Sì. Io vi darei appuntamento per la puntata dopo, continuiamo da dove abbiamo lasciato e finiamo questo calvario di Creation and Control. Sì, come... I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.